Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Si è appena concluso l'Expo, che è stata occasione per la città di Milano di ripensare il proprio rapporto con il cibo. Un processo in realtà che è partito già nel 2014 per volontà del sindaco Pisapia e che è sfociato lo scorso 15 ottobre nella stesura del Milan Urban Food Policy Pact, un patto internazionale sulle politiche alimentari urbane che è stato anche adottato dalla giunta e insomma tra poco andrà in consiglio comunale. Ne parliamo con Maurizio Baruffi, che è capo di gabinetto del sindaco di Milano. Buonasera Baruffi. Buonasera. Allora, senta, cominciamo ricordando molto brevemente appunto qual è stato l'iter di questo progetto, che dicevo inizia nel 2014. Sì, con il sindaco Pisapia, ragionando su quale contributo potesse dare la città di Milano sui temi di Expo, abbiamo riflettuto e il sindaco ha lanciato una proposta nell'ambito di un grande convegno internazionale di grandi città del mondo, dicendo ai sindaci, ai suoi colleghi sindaci, vi aspetto tutti a Milano durante Expo per siglare assieme una carta di impegni delle grandi città, delle grandi aree urbane del mondo sui temi di Expo. I temi di Expo, quindi i temi legati alla sostenibilità alimentare, alla lotta agli sprechi, ad un'alimentazione migliore e all'accesso al cibo per tutti. Su quel documento abbiamo riunito a Milano il 15 di ottobre oltre 100 città, oggi sono 117 quelle che hanno siglato il patto, che rappresentano complessivamente 400 milioni di cittadini del mondo. Ecco, che cosa si impegnano a fare queste città? Si impegnano a innanzitutto, come sempre in questi casi, a sottoscrivere una sorta di carta dei valori rispetto ai temi dell'alimentazione sostenibile, ma soprattutto si impegnano a scambiarsi informazioni sulle proprie buone pratiche. Ecco, in questo solco, all'interno di questo progetto, c'è stato anche un momento di consultazione pubblica nel quale avete cercato di raccogliere idee. Ne sono venute fuori più di un centinaio, alcune un po' forse anche scontate, ma altre decisamente un po' più, insomma, più sorprendenti. Ci fa qualche esempio? Sì, nella consultazione pubblica che è stata fatta con i cittadini milanesi, perché abbiamo lavorato da un lato sul patto internazionale e dall'altro appunto per coinvolgere i milanesi, noi abbiamo messo assieme più di 100 proposte, tra queste ce ne sono alcune che hanno dei titoli anche molto divertenti ed evocativi, penso al frigorifero di vicinato. Sì. Oppure ce lo descriva. Il frigorifero di vicinato è un'idea che è quella di mettere a disposizione delle persone che hanno bisogno di mangiare, che hanno fame, dei prodotti in un frigorifero a disposizione di tutti, in un luogo pubblico o comunque accessibile, dove le famiglie, come dire, di un quartiere possono portare lì quello che magari avanza dalla loro tavola, o se hanno fatto le lasagne ne hanno cucinata una porzione in più e qualcuno che ne ha bisogno se lo prende. Pensiamo solo a cosa succede quando si parte per le vacanze, ecco lì sarei felice di avere sotto mano il frigorifero di vicinato. Qualche altra idea? Qualche altra idea è per esempio quella di lavorare con i ristoranti per cercare di spingerli a introdurre una buona pratica, che è quella della doggy bag, cioè della possibilità di portare via al termine del pasto ciò che non si è consumato al ristorante. Questa cosa tra l'altro viene fatta in modo abbastanza diffuso ormai anche nelle scuole milanesi, una campagna Io non spreco, dove i bambini hanno un sacchettino a disposizione e possono portare a casa il pane o la frutta o i budini che vengono avanzati durante il pasto a scuola. Diciamo. Quindi diciamo i beni meno deperibili. Poi ci sono molte proposte per esempio sugli orti urbani, dopodiché ci sono delle contraddizioni molto forti, non so però se qui il comune possa fare qualcosa. Penso al fatto che se una scuola per esempio fa il suo di orto urbano, magari per far familiarizzare i bambini con l'agricoltura, poi però non se le possono mangiare le cose che... Sì, coltivano, diciamo, no? Gli orti urbani hanno due tipologie. Uno sono quelli nelle scuole, lì prevale il fattore educativo, cioè far vedere ai bambini che il pomodoro cresce da una pianticella che viene piantata nella terra e non è che si trova in una vaschetta di plastica al supermercato, certo. No? L'altro degli orti urbani invece è quello di utilizzare alcune aree della città, soprattutto quelle limitrofe ai grandi parchi di periferia, dove i cittadini possano coltivare dei piccoli appezzamenti di terreno che vengono dati in gestione attraverso un bando pubblico, lì sì, per mangiare i prodotti che vengono coltivati e quindi per davvero riavvicinare un po' le persone alla produzione alimentare, che è molto importante per riuscire a rendersi conto poi delle cose come stanno davvero, insomma. Senta, il 50% dei milanesi è venuto fuori sono single. Per esempio, questi signori hanno grossi problemi ad accedere ai gruppi di acquisto, che sono un modo per acquistare cibo proveniente magari da brevi distanze e di qualità. Anche qui state pensando qualcosa? Sì, per i gruppi di acquisto spesso c'è il problema che ci sono quantitativi magari eccessivi, non si può stoccare la merce da qualche parte, quindi noi abbiamo pensato di utilizzare i 23 mercati comunali coperti di cui Milano dispone per, con un programma che andrà avanti nei prossimi anni, mettere a disposizione degli spazi attrezzati per stoccare la merce da parte dei gruppi d'acquisto e quindi per consentire anche a quelli che non possono portarsi a casa direttamente caffette di frutta o insomma quantitativi molto rilevanti come i singoli, appunto. Un po' alla volta. Grazie Maurizio Baruffi. Grazie a voi.